Quando il cuore è in catena, più non si ama nella pelle, chiodi fissi ed il tempo non dà frutti, solo lacrime negli occhi, il terrore della sera ti prende per la mano e la notte entra piano dentro il tuo destino e la morte a vita lunga e ti tiene compagnia, non c'è foglia, solo vento, solo l'uomo crea tormento. Sul tuo viso esterrefatto, chi l'avrebbe mai detto? Tu che avevi dato tutto ed esplodono le stelle nella camera da letto, dietro i muri solo un bagno, una sedia duro legno. C'è aria che respira, non c'è pace né materia, né riposo né bufera. Quando il cuore è in catena, tu vorresti di essere altrove, ma ti mancano parole, in gola un buco nero, in bocca solo fumo, e la forza viene meno. tu subisci tutto è osceno. Cade a piombo sul tuo seno, una goccia di veleno. Cade a piombo sul tuo seno.